Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Oggi si conclude a Bologna Smart City Exhibition, una manifestazione organizzata da Bologna Fiere e Forum PA e insomma dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, che questo tema, quello delle città intelligenti, ha ormai occupato il centro della scena in tema di governance e di politica del territorio. In linea con noi c'è Claudio Forghieri, che è direttore di Smart City Exhibition, e con lui cerchiamo di fare qualche riflessione su quanto è uscito da questa manifestazione. Buonasera Forghieri. Buonasera. È un appuntamento questo, soprattutto nel quale si incontrano gli attori di questa trasformazione, e c'è stato un incontro in particolare, si chiama Meet the City, in cui tanti di questi protagonisti avevano qualche minuto per raccontare quello che avevano fatto nella propria città. Allora Forghieri, ci racconta un po' quali sono i casi più interessanti che sono venuti fuori? Sì, intanto occorre dire che noi abbiamo cercato di inquadrare questa visione della Smart City a 360 gradi, quindi se da un lato si è parlato di tecnologia, dall'altro si è parlato molto anche di partecipazione. Anzi, il tema che è emerso e che si riassume in una frase molto interessante è questo: Smart City is about people organizing themselves. Quindi le persone, grazie alla Smart City, si auto-organizzano e partecipano alla gestione dei servizi, partecipano al miglioramento della città. In questo scenario alcune città spiccano con progetti molto interessanti. Noi ci tenevamo in questa prima edizione a portare un panorama internazionale, oltre che naturalmente italiano, perché riteniamo che avere presente che cosa sta accadendo nel mondo sia per noi importante per definire quella che poi è la strada italiana, la Smart City. Per esempio da Amsterdam c'è molto da prendere come spunto. Innanzitutto una vision che parte da lontano, ce l'ha raccontata il manager di Amsterdam Innovation Motor, che è la società pubblica però con forte partecipazione di università e di aziende che sviluppa tutti i progetti. Lui è partito affermando una cosa molto interessante, dice: noi facciamo cose, noi le cerchiamo di sperimentare. Questa è l'altra componente di riflessione trasversale, cioè le città che ci hanno raccontato i casi più interessanti sono anche le città che ci hanno raccontato dei fallimenti, ma dei fallimenti che sono serviti per mettere a punto poi le soluzioni migliori. Ad Amsterdam, per esempio, il tema della mobilità è un tema molto importante, loro l'hanno affrontato in diversi modi, ad esempio sviluppando una rete di luoghi per mobile workers che consentono alle persone di non doversi spostare tanto, anzi sviluppando queste sedi decentrate un po' in tutta la città a distanza massima di 5 minuti di bicicletta dal luogo di lavoro. Questa soluzione è molto bella, a cui si unisce per esempio un'altra soluzione, che è quella di avere una rete straordinariamente vasta di macchine a disposizione del pubblico che possono essere prenotate attraverso un'applicazione, prese in un punto vicino e poi lasciate in un altro, e comunque la macchina è georeferenziata e quindi chi si trova in quella zona poi a sua volta la può riprendere. È un modello questo del car sharing olandese che attualmente è unico in Europa, anche proprio per il tipo, diciamo, di forze che si sono messe in campo, perché se non sbaglio l'Olanda è l'unico paese nel quale sono le case automobilistiche che si sono impegnate in questo servizio del car sharing. Sì, assolutamente sì, queste sono ottime soluzioni. Devo dire che non abbiamo visto solo cose di questo tipo, che peraltro sono anche fortemente tecnologiche, naturalmente c'è tutto il tema dell'infomobilità, ma abbiamo visto anche soluzioni molto concrete e tangibili. Ad esempio la piccola città di Fundão in Portogallo, che è una città piccolissima che soffre di tutti i problemi di invecchiamento della popolazione, fuga dei cervelli, giovani che non trovano lavoro, si è rimboccata le maniche e ha fatto un percorso partecipativo trasformandosi in una sorta di living lab nel mezzo del Portogallo, con un fortissimo coinvolgimento della popolazione che ha collaborato fattivamente alla riconfigurazione di tutta una serie di edifici che avevano una destinazione poi abbandonata e che invece sono diventati luoghi che ora attraggono invece talenti nella città. Ecco, quando diciamo fattivamente intendiamo con la cazzuola proprio. Con la cazzuola, con il pennello e anche ovviamente partecipando al co-design di quello che doveva diventare questo spazio. Insomma, proprio gli abitanti si sono dati da fare, hanno ristrutturato fisicamente tutta una serie di edifici, la zona è diventata più interessante, più bella e ha cominciato a riaffluire gente. E a quel punto, essendo la città comunque connessa attraverso la rete al resto del mondo, diventa attrattiva anche per talenti creativi, start-up che si trovano magari non esattamente in quel luogo. Ecco, altre esperienze molto interessanti sono quelle finlandesi. Abbiamo avuto con noi Jarmo Eskelinen, che è il CIO di Forum Virum Helsinki, che anche in questo caso è un'organizzazione nata dall'amministrazione proprio per sviluppare soluzioni innovative. E anche per lui la formula dei Leading Labs, quindi del coinvolgere le persone nella sperimentazione di soluzioni innovative, è al centro dell'attenzione. Ecco, insomma, questa formula, tanto per capire, Living Labs vuol dire proprio laboratorio vivente, insomma vuol dire che queste applicazioni, chiamiamole così, per la Smart City hanno bisogno di una fase beta, come si suol dire, molto lunga e molto partecipata perché si possa capire veramente di che cosa c'è bisogno, no? Cioè, spesso gli strumenti si immagina che abbiano un certo uso, ma poi messi alla prova si scopre che hanno degli usi inaspettati oppure che non vengono usati come ci si aspettava, e questo è un po' il problema, che bisogna proprio testarle queste robe, sono sì, nuove. E fra i segnali positivi devo ammettere che anche in Italia si sta incominciando a ragionare in questi termini, abbiamo esperienze interessanti che si stanno sviluppando a Genova, ma anche nel sud, per esempio in Puglia e a Palermo. D'altro canto, in questa carrellata di città che ci hanno raccontato di cose intelligenti che stanno facendo, non mancano anche le esperienze italiane, per esempio Bologna, per esempio Firenze. In Italia devo dire che l'accento in questa fase è posto in modo decisamente significativo sulla componente di connettività, cioè il wifi sta diventando una delle chiavi di lettura perché è abilitante, probabilmente anche perché questa è una fase che all'estero è già stata superata da tempo, cioè quando si trova nelle capitali nord europee il wifi è abbastanza facile trovare, trovare una connessione wifi disponibile. Grazie Forghieri. Grazie a voi. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.